today's certain topic will be about some more on patience, as well as a few words about neutrality of mind, with an excursion into composure, and this then neutrality of mind, equanimity about formations, composure, and then finally the six-factored equanimity. Ok, quindi questa sera sempre per incoraggiarvi, per sostenervi nella pratica, il discorso sarà su determinate qualità della mente, e in particolare parleremo della pazienza, della neutralità della mente, della equanimità, poi della compostezza e poi della equanimità con dei sei fattori. Six factors. Now, the Dhamma Sangini, which is the first of the Abhidhamma works, describes satna patience by way of synonyms, and satna there we find satna the following useful information. Quindi nel primo lavoro dell'Abhidhamma viene descritta la pazienza attraverso dei sinonimi, e lì quindi troviamo delle indicazioni utili. So, patience in the Pali scriptural language is known as kanti, and satna then is described as the ability of a person to forgive, kamanatta in Pali. Nella pazienza, che si chiama kanti nella lingua Pali, è descritta come l'abilità di perdonare. Then, another way of describing patience is, or another aspect, is to bear up or to endure, in the Pali scriptural language known as or given as adiwasanata. Quindi adiwasanata nella lingua Pali è un altro modo per descrivere la pazienza, quindi un'altra definizione, un altro aspetto, ed è quello del sopportare, del riuscire a a reggere la situazione, sostenerla. And then yet a further aspect of fatna patience is given as gentleness, acchandikam, in the Pali scriptural language. Acchandikam è un altro aspetto della pazienza che è quello della gentleness, della delicatezza, della morbidezza. And so then we have as yet another aspect freedom from harshness, anasurupo in Pali, sometimes also referred to as absence of ferocity. E l'altra è aspect. Absence of absence of harshness or ferocity. Quindi è l'assenza della durezza o della ferocia. Questo è un altro aspetto della pazienza che viene dato. E nella lingua Pali it is given as anasurupo. Anasurupa. Now you might remember that during the Dhamma talk on afflictive emotions, there was mention of ill will, hatred, and one of its aspects was as ferocity, and its characteristic was given as ferocity or savageness. Now, in the case of patience, it's absence of that harshness or ferocity or savageness. Vi ricorderete quando si è parlato delle emozioni afflittive della mente, che si è parlato della malevolenza e dell'odio, e uno degli aspetti che venivano anche dati era proprio quello della ferocia o dell'essere selvaggio, diciamo. E quindi la pazienza in questo contesto è descritta proprio come l'assenza di questa ferocia, di questa aggressività, di questa violenza. No. This Or yet another aspect of Ferdinand patience is given as contentment of Ferdinand mind in Pali as Atamanata Chittasa. Atamanata Chittasa è la parola Pali che indica la pazienza. Sorry, I'm missing some parts. Contentment of mind, aspect of patience. La pazienza con questo aspetto dell'appagamento della mente, della soddisfazione, dell'accontentarsi di ciò che c'è. Now, without having developed patience, it will be somewhat difficult to forgive, to endure, to be gentle, to be free from harshness, and to be contented. So, these aspects, these qualities come with practice. Quindi in assenza della pazienza sarà difficile riuscire a perdonare, a essere gentili, a far sì che ci sia questa mancanza di malevolenza o di durezza. E ovviamente questa pazienza viene sviluppata attraverso la pratica. Now, as explained already previously, the characteristic of Ferdinand patience is given as acceptance. Come abbiamo già detto, la caratteristica della pazienza è data come accettazione. And its function is to endure the desirable as well as the undesirable, so both aspects. E la funzione è quella di sopportare sia gli aspetti desiderabili sia quelli non desiderabili, quindi entrambi questi aspetti. And so its manifestation is as non-opposition and as certain tolerance. E la sua manifestazione è la non opposizione o la tolleranza. Now, furthermore, its certain approximate cause, so the nearest cause for it, its arising, is certainly given as seeing things as they truly are. So, in other words, certain wisdom. E la sua causa prossima, cioè ciò che permette alla pazienza di sorgere, è il vedere le cose così come sono realmente. In altre parole, la saggezza. Now, what we shall do is look at aspects in connection with patience that are directly related to our meditation practice. Quindi quello che faremo è di considerare gli aspetti della pazienza che sono direttamente correlati con la nostra pratica. Now, in the classical definition of patience, the function was given as to endure both desirable as well as undesirable objects. Quindi nella nostra definizione classica abbiamo detto che la pazienza è quel fattore che permette di sopportare sia gli oggetti desiderabili che quelli non desiderabili. So, in our meditation practice, do we experience only desirable formations or objects? Nella nostra pratica meditativa facciamo esperienza solo di oggetti desiderabili. Would that be realistic to say? Sarebbe una cosa realistica da dire? Not really. So, when we practice the whole range of human experiences come up, the whole range of physical and mental formations will come up for us to deal with them. And in the face of all of these many different objects, we do need a high degree of patience. Quindi durante la nostra pratica meditativa sorgeranno, si presenteranno per la nostra osservazione tutta una gamma di oggetti, sia fisici che mentali. Quindi per poter in qualche modo affrontare, gestire tutto ciò che sorge, è necessaria una buona dose di pazienza. Now, what kind of objects do you in the face of which kind of objects do you think patience is necessary in your meditation practice? Di fronte a quali oggetti secondo voi la pazienza è un fattore importante, indispensabile nella vostra esperienza? Yes. Oggetti non desiderabili. The non-desirable. Non-desirable. Yeah, okay. And then, more specifically, più among those. Specificatamente tra quelli non desiderabili. States of anger. All states of anger. Yes. Okay. Stati di rabbia. Pain. Pain. Physical pain. Yes. Dolore fisico. Anything else? Something you had achieved already. Something you had achieved already. And this kind of Oh, and it's gone again. Yes, okay, una good. Cosa che uno aveva acquisito e poi l'ha perso. Ricquidezza, so restlessness. Yes, one's own restlessness, both you can say physical as well as mental. Quindi anything else? Ricquidezza sia fisica che mentale. Both, yes. Tutte le formazioni mentali negative che sentiamo come negative. All mental formations that we feel is negative. Yes, no, that's no, also no, correct to say. Yeah, then what about sitting in meditation and then the same tune comes up 100 times? You mean in the mind? E invece cosa vi è mai successo di sedervi in meditazione e sorge nella mente sempre la stessa melodia ripetutamente in maniera ossessiva? And there have been meditators who've experienced this in the past. It's not so uncommon. Meditanti che lo riferiscono che hanno fatto questa esperienza in passato. Non è così poco comune, diciamo. So at first when you have this kind of an experience, at first you might be quite pleased because you have some entertainment in your own mind. But if the same tune comes up another 99 times, then sooner or later you might get bored with it and you might get impatient with it. All'inizio potrebbe anche piacervi perché almeno avete qualcosa che vi intrattiene durante la vostra meditazione, ma se questa melodia sorge 99 volte, a un certo punto comincerete a essere annoiati, anche irritati. No, maybe not all of you have experienced that, those repetitive songs coming up, but you will surely have experienced obsessive, a particular type of obsessive thinking, the same thought coming up 500 times. Può darsi che non abbiate avuto questa esperienza di una melodia ricorrente, però è facile che invece conosciate il tormento dei pensieri ossessivi, quei pensieri che ritornano sempre nella mente 500 volte anche. So patience, much patience is also required with regards to such obsessive thinking. Quindi anche riguardo a questi pensieri ossessivi è necessaria una buona dose di pazienza. Or, let's say, you're trying really hard in your meditation practice, but some or other, you seem to be hitting a wall, and you can't go any further. And in a situation like this, which is certainly common, it happens, again, one does certainly need a dose of patience. Oppure può capitare che nella vostra pratica state mettendo molta energia, molto sforzo, molto impegno, però come se andaste sempre a sbattere contro un muro. E questo capita a parecchie persone nella loro pratica. Anche qui è necessaria una buona dose di pazienza. Or, if you happen to sit next to a retreatant who is breathing very deeply and it's audible, and then this rhythm, this breathing, loud breathing, it is then gradually getting on your nerves, then too you might need some patience. Un'altra situazione in cui è necessaria la pazienza quando si è seduti accanto a un meditante che respira molto profondamente e molto rumorosamente. Or, if you feel hungry and then here comes the bell for lunch, and unfortunately, bad luck for you, there's a retreatant in front of you who is really doing his or her walking meditation at snail pace. Un'altra situazione può essere la seguente: avete molta fame, suona la campana del pasto e la persona davanti a voi in coda sta facendo la sua meditazione camminata ad una velocità da lumaca. Now, there's other cases when we do need patience, such as, for instance, these days, the weather, which keeps changing all the time. Jenny told me this morning in March the temperature was up to how much, 25 degrees or so, and now for a while it was pretty cold, and now it seems to be warming up again, and sometimes it rains, and the sun is shining, it's raining again, and so on. Un'altra situazione in cui può essere utile la pazienza è quando c'è un tempo come questo. Un mese fa già mi ha detto a marzo, già mi ha detto il Venerabile che c'erano delle temperature molto alte, fino a 25-26 gradi, poi è stato molto freddo e adesso c'è questo tempo mutevole, fa un po' freddo, un po' caldo, c'è il sole, piove. E rimane una sola cosa da fare, cioè accettare. And suddenly then, I don't know whether you're here, but suddenly in Lumbini, we have in the course of the year, a great variety of insects suddenly then come up. And suddenly they come in seasons. You can tell during such and such a month, such type of, particular type of insects and different kinds of ants and so different sizes, colors and whatnot, they all of a sudden appear. And suddenly they may give the retreatants a headache. Non so se succede anche qui, ma a Lumbini ci sono determinati insetti che vengono fuori in determinati periodi dell'anno, delle formiche o di varie misure, vari colori, eccetera. E questo potrebbe dare ad alcuni meditanti un mal di testa, un po' fastidio, diciamo. In some centers, not here, there might be a problem with noise, or there might be a problem with food, that the food is certainly insufficient, or maybe there might be a difficulty with accommodation. Too many meditators get squeezed into one and the same room, like 10, 11 in a room that usually fits just that is designed only for 3 or 4. And so in a situation like this, well, patience is required. Ci sono alcuni centri, non è questo il caso, spero, in cui c'è molto rumore, per esempio, oppure ci sono dei problemi con il cibo, insufficiente, per esempio, oppure non si riesce a digerire, insomma c'è un problema con l'alimentazione. Potrebbero esserci dei problemi con la sistemazione nelle stanze, cioè troppi meditanti che si cerca di infilare in una stanza troppo piccola. Anche qui è necessaria la pazienza. Now, because there is no perfect meditation center with perfect conditions, we simply just have to put up with conditions as they are, and this requires patience. And so, if we bring up the patience, then everything will be okay. And then, usually our practice will unfold very nicely. Siccome non esiste un centro di meditazione ideale, non possiamo fare altro che accettare le condizioni così come sono e quindi sviluppare la nostra pazienza, e se questo avviene poi anche la nostra pratica si svilupperà molto più facilmente. If as a retreatant we are overly fussy and make all sorts of demands to the people who are, let's say, running the center. Oh, today I want to have this food, tomorrow I want to have a different kind of food, and then next day again a different kind of food. Such kind of meditators, what do you think? Are they close to Nibbana or not? Se ci sono dei meditanti che sono particolarmente esigenti con i gestori del centro, per esempio, allora vogliono un certo tipo di cibo, non un altro tipo di cibo, insomma, si lamentano continuamente. Secondo voi questi meditanti sono vicini al Nibbana oppure no? Well, obviously. No. Ovviamente no. So, yeah, right answer. And so, this being patience being really important, the Burmese have realized this at an early point, and therefore they have coined a saying, "Fikama Nibban Yote," which means only when patient does one reach Nibbana, and that saying is very true for the practice. I birmani hanno capito molto bene l'importanza della pazienza nella pratica e quindi hanno, hanno prodotto questo detto che dice solo attraverso la pazienza si può raggiungere il Nibbana. No, patience is obviously very much required in the meditation practice, but patience is also required in life in general. And the patience that we learn to develop in the meditation practice, that patience then also will be very useful for our daily life. La pazienza è importante nella pratica, ma anche nella nostra vita quotidiana. Quindi la pazienza che impariamo a sviluppare durante la nostra pratica, poi la possiamo trasferire nella vita. E sarà molto utile. The Buddha has certainly spoken of patience in regard to speech, others' certain speech. And he says, and it's certainly really noteworthy, there are five kinds or courses of fitness speech that others may use when they address you. Il Buddha ha indicato la pazienza come una utile, un utile atteggiamento nei riguardi della parola, del linguaggio altrui, e ha elencato cinque diversi tipi di linguaggio che gli altri possono utilizzare per rivolgersi a te, alla persona. And those five courses of speech are: number one, their speech may be timely or untimely, their speech may be true or untrue, gentle or harsh. Allora, potrebbe essere il discorso, il linguaggio adeguato ai tempi, cioè detto nel momento giusto o non nel momento giusto, sarà un termine italiano, true, puntuale o non puntuale, diciamo così, può essere sincero o non sincero, può essere gentile, duro oppure gentile. And then next, connected with good or with harm, and then finally spoken with a mind of loving kindness or with a mind of inner hate. Quindi può essere un linguaggio buono o cattivo, diciamo, good or bad, did you say? Good or bad, quindi buono o cattivo, oppure un linguaggio pieno di gentilezza amorevole, oppure pieno di malevolenza. So, in the course of one lifetime, we will be spoken to many times, and for some more than for others. And we cannot realistically expect that the speech that we will have to deal with, that certainly is spoken to us or addressed towards certain us, that is always going to be pleasing and soothing to the ears. Quindi nell'arco della nostra vita ci troveremo spesso in situazioni in cui le persone si rivolgono a noi e non possiamo aspettarci che le parole siano sempre piacevoli o che siano dolci alle nostre orecchie, diciamo. And so, with regard to other speech, it is very important to have as much patience as possible. Nei confronti del linguaggio degli altri è importante avere più pazienza possibile. Now, in terms of the meditation practice, what we can observe is that retreatants who at first have very little patience, in other words, they're full of impatience, for such retreatants in the course of shorter and then gradually longer retreats, the impatience gradually turns into some patience, moderate patience, and a lot of patience. Quindi quello che possiamo dire sulla pazienza in un ritiro è che se un meditante comincia il ritiro con molta impazienza, si vede come nell'arco della pratica, nell'arco del tempo, questa impazienza diventa un po' di pazienza, poi una pazienza moderata e poi una gran pazienza. And then eventually even extraordinary patience. E poi addirittura una pazienza straordinaria. Now, the way this happens is that at first one might be encountering some physical pain, and that pain at first seems unbearable, excruciating, one cannot tolerate it anymore. And so sooner or later one then changes one's posture. Now, at a later point, a similar pain might arise again, and that The second time, when facing the pain, dealing with it, it might already be a little bit easier to deal with the pain, and with that, more patience is there. And this development continues. Potrebbe capitare che inizialmente sorga un dolore fortissimo, insopportabile, e a quel punto il meditante cambia la sua posizione. Poi quando sorge il dolore una seconda volta, forse della stessa intensità, il meditante si accorge di riuscire a sopportarlo meglio, a restare un po' di più con il dolore. Così facendo sviluppa un po' di più la sua pazienza. E questo processo può andare avanti ancora. And certainly the point certainly may come when a pain arises that previously at the beginning of the retreat seemed like totally unbearable. Now it's suddenly perceived as just another sensation. It's not even seen as a pain anymore. E può succedere che un dolore che all'inizio del ritiro sembrava una cosa assolutamente insopportabile venga poi percepito in un altro modo, come una semplice sensazione fisica, e addirittura non viene considerato neanche un dolore. And certainly what certainly holds true for the observation and confrontation with certain physical pains and aches, and then also holds true for any form of or any mental object, be it desirable or undesirable. Quindi quello che vale per qualsiasi oggetto fisico o sensazione fisica vale anche per qualsiasi oggetto mentale, che sia desiderabile o non desiderabile. And certainly, so even if one experiences restlessness for a while, or maybe some anger is there, or some obsessive thinking keeps coming up again and again, then the mind is in a much better position to deal with it. Quindi che sia l'irrequietezza o la rabbia o qualche pensiero ossessivo, beh, la mente diventa progressivamente sempre più in grado di affrontarlo. And we can say that by facing difficult physical or mental objects, oftentimes challenging objects, our patience actually grows. Possiamo dire che il fatto di affrontare questi oggetti fisici o mentali difficili, addirittura si presentano come delle sfide, beh, questo fa sì che la nostra pazienza cresca. And it's kind of like pushing the limits, extending the limit of patience more and more. È come estendere i limiti della pazienza sempre di più. No. In regard to patience, the Buddha has exhorted the bhikkhus to develop patience to a degree that they should remain unaffected even though bandits were to cut off their limbs one by one. And the question is, are you ready for this? You already are not. Allora, il Buddha esortava i suoi bhikkhu, i suoi monaci, a sviluppare la pazienza a un punto tale per cui sarebbero riusciti a sopportare, a restare immobili anche di fronte dei banditi che arrivavano e tagliavano i loro arti uno per volta. La domanda è: voi siete a questo punto, riuscireste a reggere questa situazione? Yeah, obviously not. Ovviamente no. None of us. Nessuno di noi. But at least it gives us the direction to go. Però se non altro ci dà la direzione in cui andare. And now, with regard patience, the commentator, Venerable Acharya Dhammapala, offers a number of reflections, and out of those, allow me to share one or two with you, which are pretty useful. Quindi il commentatore Acharya Dhammapada. Dhammapada. Scusate, ha fatto alcune riflessioni rispetto alla pazienza. È venerabile, ne condivide almeno una con noi. And he says, this is the nature of the sense faculties to encounter desirable and undesirable objects. How then it is possible not to encounter undesirable objects? Quindi è nella natura delle facoltà sensoriali di incontrare oggetti sia desiderabili che non desiderabili. Com'è possibile quindi evitare di entrare in contatto con degli oggetti non desiderabili? And the same new commentator offers a second reflection, and he says, when there's patient, the mind becomes concentrated, free from external distraction, and with a mind that is concentrated, all new formations appear, or all formations are seen as impermanent, as unsatisfactory, and as lacking a self. And eventually, this thing leads to the realization of Nibbana. Quindi lo stesso commentatore aggiunge che grazie alla pazienza questi oggetti cominciano a essere visti come impermanenti, insoddisfacenti e come privi di un sé, e questo a sua volta porterà poi a Nibbana. No, when as a human being we develop this quality, this mental quality of patience, then gradually the patience may become a really valuable asset for us to rely on whenever a situation becomes somewhat challenging. Quindi quando riusciamo a sviluppare come esseri umani questa pazienza, allora questo diventa un punto di riferimento molto importante ogni volta che dobbiamo affrontare delle situazioni difficili o di sfida. Aggiungo una cosa che non ho detto prima, che il commentatore diceva che la pazienza sviluppa concentrazione, ed è grazie alla concentrazione, alla mancanza di distrazione, che si può giungere al Nibbana. Now, obviously it is much better to respond to a situation calmly and with patience rather than to blow up and opt for some wild behavior. Ovviamente è meglio affrontare una situazione con calma e con pazienza piuttosto che esplodere e mettere in atto un comportamento selvaggio. And therefore, the Buddha has praised patience as the best moral practice, and he says the best moral practice is patience and forbearance. E per questo il Buddha ha lodato la pazienza, dicendo che la miglior pratica morale sia la pazienza che lo spirito di sopportazione. And he's also referred to patience as the highest blessing. E si riferisce alla pazienza anche, chiama anche la pazienza la più alta benedizione. Now, maybe this much on patience, and let us look at another mental state that is very valuable for the meditation practice and life in general, and this is neutrality of mind. Quindi adesso passiamo ad un altro stato mentale, un'altra facoltà mentale che è molto importante sia nella pratica che nella vita quotidiana, e questa è la neutralità della mente. No, this neutrality of the mind, the Buddha has described by way of illustration, and he says, as a mountain of rock is unshaken by wind, so too the wise are unperturbed by praise and blame. dove il Buddha ha illustrato questa, o ha spiegato questa importante facoltà della neutralità della mente attraverso una similitudine che è quella della montagna. Dice, così come una montagna è imperturbata, si dice così, imperturbabile forse, non è toccata, diciamo, dal vento, da altri agenti atmosferici, così la mente di un saggio non è disturbata, non è intaccata. It's unperturbed. By the praise and the blame. Sia dalle lodi che dal biasimo. Now, what this neutrality of mind is not, well, it is not indifference and it is also not disinterest. Quindi questa neutralità però non è indifferenza e non è neanche disinteresse. And it's also not being unfeeling towards others, having no connection with others, kind of dropping others. It's not that. E non è neanche essere insensibili o non avere sentimenti nei confronti degli altri, non è questo, o lasciar cadere, diciamo, ogni relazione con gli altri. But rather it is a mental state that keeps to the middle and arises out of the meditation practice and can be very useful. Piuttosto è uno stato che sta sempre nel mezzo, ci permette di stare nel mezzo e sorge dalla pratica meditativa ed è uno stato mentale molto utile. And this neutrality has also been referred to as the zero point between extremes. Whatever the extremes might be, such as craving or craving and aversion. Sì, quindi è anche stata definita questa neutralità come il punto zero tra i due estremi, qualunque siano questi due estremi, per esempio il desiderio e l'avversione. Other expressions for this neutrality of mind would be balance of mind, detachment, impartiality, middleness. And certainly also non-reactivity of the mind. Quindi altre espressioni per questa neutralità della mente possono essere l'equilibrio, il distacco, il stare nel mezzo, diciamo. And then I go, I'm sorry. So you've got the impartiality. E l'imparzialità. Yeah. Okay. You've got this, and then the non-reactivity. E anche la non-reattività. That's it. The mind is unshakable. Quindi la mente, in altre parole, è incrollabile. No, this neutrality of mind. Well, it's a quality that arises out of the meditation practice. Most people who don't meditate are not even aware of it. They don't even know the term, or they don't even understand what is meant by the term. And so it's a wise way of dealing with certain situations in the practice as well as in life in general. Quindi questa neutralità, come abbiamo detto, deriva dalla pratica. Quelli che non meditano a volte non sanno neanche cosa significhi, ed è ovviamente un modo saggio per affrontare qualunque situazione, sia nella pratica che nella vita. No, this neutrality of mind is a mental factor, it's a specific well defined mental factor, and it's Pali name is Tatra Majadatta. Questo che ha appena detto è il termine Pali della neutralità della mente, che è un vero e proprio fattore mentale. And certainly its characteristic is given as the conveying of equally conveying consciousness and the mental states. E quindi la caratteristica sta nel trasmettere in maniera equa la coscienza e gli stati mentali. Yes. And its function is to prevent either excess or deficiency, or else to prevent partiality. E la sua funzione è quella di prevenire sia gli eccessi che le mancanze, quindi in altre parole promuovere la imparzialità. And that it is manifested as neutrality. Si manifesta come neutralità. Or that, the state of being there in the middle. Oppure, in altre parole, questo stato di essere lì nel mezzo, praticamente, a metà. So, this is certainly, this is one aspect. Now, let's move on and take a closer look at what is referred to as Sankha Upeka Jnana in the Pali language, which is given in English as the knowledge of equanimity towards formations, all formations. Quindi questo è solo un aspetto, adesso vediamo un altro che è il Sankha Upeka Jnana, che significa l'equanimità rispetto a ogni formazione. And certainly by formations are meant objects that are subject to impermanence, to unsatisfactoriness, and also subject to anatta. E quindi per formazioni intendiamo tutti quegli oggetti che sono soggetti, soggetti all'impermanenza, all'insoddisfazione e anatta, non sé. No. From the term knowledge of equanimity about formations, you can already follow or conclude that certainly here's an element of knowledge, of wisdom involved, and therefore the Pali term jnana. E quindi si può comprendere, intuire che da, parlando di conoscenza dell'equanimità riguardo le formazioni, beh, questo è una forma di saggezza, e quindi per questo nel Pali si usa la parola jnana. And this particular knowledge of equanimity about formations arises during one's meditation practice, but towards the later phase of one's practice, and it's an important foundation for the crossing over. E questa particolare conoscenza avviene verso la fine del percorso di pratica meditativa ed è una base, un fondamento importante dal quale poi si può fare il passaggio dall'altra parte. And this particular knowledge has been defined or described in the Patisambhita Magga as consisting of two parts, namely the knowledge of reobservation, which is the preceding insight knowledge, as well as of composure. Il Patisambhita Magga definisce questa particolare conoscenza, cioè divide questa conoscenza in due parti. La prima è la conoscenza della riosservazione e la seconda è la conoscenza della, possiamo dire in italiano, la compostezza. Definition, taken from the Visuddhimagga, we have this knowledge of equanimity about formations is equanimity in the sense of neutrality plus reobservation plus composure with regard to the hindrances. Il Visuddhimagga invece definisce questa particolare conoscenza dell'equanimità verso le formazioni come composta di equanimità, come neutralità, riosservazione e compostezza. With regard to the hindrances. Quindi la compostezza riferita agli ostacoli. Ostacoli and also other difficulties. E anche rispetto ad altre difficoltà. No, this certain particular phase in the meditation practice, this particular insight knowledge has been characterized in six different ways, and I just share this for your general knowledge. Quindi questa particolare conoscenza dell'insight è stata quindi è descritta in sei modi diversi e adesso li elencherà per il vostro così, per la nostra conoscenza generale. Now the first one is absence of pain and pleasure. Absence of fear and pleasure. La prima è l'assenza della paura e del piacere. The second one is that pain and pleasure are seen equally with equanimity. Il secondo è che sia il dolore che il piacere sono visti con equanimità, quindi allo stesso modo. When this particular knowledge is prevalent in one's practice, then the practice carries on more or less sadhana by itself without the yogi having to make a superb effort or any extraordinary effort. Quando la pratica arriva a questo stadio, è come se andasse avanti per conto suo, senza bisogno che il meditante metta un particolare sforzo. And sadhana furthermore, there, as one continues with one's practice, the state of equanimity tends to last longer and longer, and also becomes more and more refined. E oltre, con l'andare avanti della pratica, questo stato di equanimità diventa sempre più duraturo e inoltre anche più raffinato, più sottile. Yes. And suddenly the last point is suddenly that the mind becomes rather steady and it recoils suddenly from formation, so it withdraws from, especially from external objects. E l'ultimo punto è che la mente diventa più stabile ed è come se si ritraesse dagli oggetti, soprattutto appunto dagli oggetti esterni. Now, when it retreated has reached this particular knowledge of equanimity about formations, then this first reaching is still, or the experience of, or this knowledge will still be very weak, very fragile. And there is a great need to strengthen it more and more. And that is simply done just through further practice. Quando un meditante raggiunge per la prima volta questa equanimità verso le formazioni, questa conoscenza è ancora fragile, ancora debole e quindi va rafforzata. E questo può accadere solo attraverso una maggiore pratica, una pratica continua. Now, one factor that suddenly contributes towards suddenly the further strengthening of this particular knowledge of equanimity about formations is to repeatedly see formations, see and deeply understand the formations in the light of anicca, dukkha and anatta. Un modo per rinforzare questa equanimità verso le formazioni, questa particolare conoscenza, è di rivedere ripetutamente le formazioni come anicca, dukkha, anatta, cioè come impermanenza, insoddisfazione e non sé. Now, during this phase of the practice, it's also important to see formations not as I, or relate to formations not as I or my or mine. In questa fase della pratica è importante rapportarsi alle formazioni non come se fossero io o me o mio. No, this equanimity also arises at an earlier point, not only during this knowledge of equanimity about formations. So much earlier point, and suddenly this happens after a retreat and has clearly experienced those three universal characteristics of anicca, dukkha and anatta, and has gone through what we described yesterday, those beautiful mental states. Quindi l'equanimità sorge anche precedentemente nella pratica, quindi prima di arrivare a questo insight dell'equanimità verso le formazioni, e più precisamente si verifica quando il meditante vede chiaramente le caratteristiche di anicca, dukkha e anatta nelle formazioni, e cioè dopo aver superato quello di cui parlavamo ieri, e cioè questa esperienza degli stati piacevoli o belli della mente. And at that point, you know, the equanimity is also one of those imperfections of insight, and it's important, you know, that again, you know, one that does not relate to, you know, formations in the sense of I, my, or mine. Dunque, in quella fase l'equanimità è una di quelle che si chiamano le corruzioni dell'insight, ed è molto importante anche lì che il meditante non veda questo stato mentale come io, me o mio. No. Back to, you know, this knowledge of equanimity about formations, which is a rather refined knowledge, and in order to gain it, in order to strengthen this, we need to observe phenomena, physical as well as mental phenomena, without hitching, without getting lost in any one of them, without getting caught up or entangled in any object. Quindi per tornare all'equanimità verso le formazioni è importante, per poter rafforzare questa conoscenza, il non rimanere intrappolati o impigliati o troppo coinvolti nelle formazioni che si presentano. So to give you an example for this, let's say you're observing the rising and falling movement of the abdomen, you're seeing quite a few details, and all of a sudden your mind remembers something that happened 5 years ago, and suddenly, then that makes you really upset. That means get into hitching. Hitching with this, the flow, the momentum gets disrupted, and then equanimity cannot arise or not develop. Per esempio, stiamo osservando l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome e sorge un ricordo di qualcosa successo 5 anni fa, e questo crea una certa turbolenza nella mente. Ecco che abbiamo perso, diciamo, questa continuità dell'osservazione nell'addome e siamo rimasti impigliati invece in questa distrazione, diciamo, della mente. È questo che si intende con e hitching, che è come un agganciarsi, la nostra mente si è agganciata a quest'altro oggetto, diciamo. Now, experience shows that longer sittings also help to stabilize the knowledge of equanimity, as well as keeping the body as still as possible. E quindi l'esperienza insegna che il fatto di restare per più tempo nella meditazione seduta può aiutare, così come il mantenere sempre la stessa posizione. Questo aiuta il rinforzare dell'equanimità. Let's say you were on retreat for 3 months in a row. And so you observe rising and falling, movement of the abdomen, other predominant physical and mental formations for a month, and then for a second month, and then by that time you've basically seen quite a lot. And then comes the third month, and again the same range of physical and mental formations then comes up for your observation. Sooner or later you get the point, it's just physical and mental formations that are arising. You've seen them all already, and so why get so carried away? Why react so strongly to formations? It's just thinking, it's just rising and falling, it's pains and aches and so on and so forth. And with that, gradually you manage to detach from these formations, and you just see them as events, they come, they go, and that's it. Quindi immaginiamo che fate un ritiro lungo di 3 mesi. Allora, per il primo mese osservate il sorgere degli oggetti mentali e fisici, il secondo mese ancora lo passate ad osservare tutti questi fenomeni che si presentano, arriva il terzo mese e finalmente cominciate a capire che non sono altro che fenomeni che continuano a ripresentarsi, che sia un pensiero, un dolore o qualunque cosa, o uno stato mentale. non fa altro che ripetersi. A quel punto la mente comincia a chiedersi: ma perché devo restare coinvolto, perché devo farmi intrappolare da questi fenomeni che si presentano? E quindi nasce un certo distacco, e da lì poi l'equanimità verso tutti i fenomeni che accadono. To give you a practical example here from the center. Jani and Satnasandra have been preparing breakfast for the meditators many, many, many times. Preparing breakfast is what? Does it put you under a lot of stress, or can you do it with quite a degree of detachment? Facciamo un esempio pratico qui del centro. Allora, Sandra e Gianni sono tanto tempo, sono anni che preparano tutte le mattine la colazione per i meditanti. Allora il Venerabile chiede: ma questo è una cosa facile o richiede un certo impegno? Se ci mette sotto stress. Sì, se put you under stress, ci mette sotto stress oppure no? However, if we take one of these new trainees and who volunteered to help here at the center, for such a person, preparing breakfast may still be quite stressful. And so there's not much detachment there. Ma se prendiamo uno dei nostri volontari che si stanno addestrando per questo lavoro e gli si fa preparare la colazione, questa persona potrebbe trovarsi in uno stato di stress perché ancora non è, come dire, abituato, non è pratico in questa mansione. That's the point, because one is not used to it. One hasn't done it that often yet. Questo non l'ha fatto ancora in maniera così continuativa e ripetuta per un tempo abbastanza lungo. So, having observed formations over and over and over again, sooner or later the question comes up in the mind: is this all? Is there anything else? Is there any place that is where we don't, where I don't have to face these formations over and over again? And with this thing, the mind turns away from those formations. Quindi allo stesso modo, quando uno ripetutamente vede le stesse formazioni che si presentano, arriva a un certo punto in cui si dice: ma è tutto qui? E la mente a questo punto si allontana dalle formazioni. Perché uno comincia a chiedersi: ma c'è un luogo dove non devo continuamente rapportarmi con le formazioni? Now, as one keeps doing the practice, and certainly keep observing predominant objects, gradually more and more of that equanimity of or knowledge of equanimity towards formations will arise. Quindi con la pratica, se uno continua a osservare consapevolmente tutto ciò che sorge, questa equanimità sorgerà sempre di più. Questa conoscenza sull'equanimità delle formazioni sarà sempre più presente. Now, just a few words about certain composure. Composure in the practice. Composure is best understood through its opposite, namely a lack of composure. Quindi parliamo di quest'altra qualità della mente che io traduco come compostezza, non so, magari ci sarà un termine migliore. Comunque si capisce meglio con il suo opposto, cioè la mancanza di compostezza. No, lack of composure is experienced, for instance, by straining, by clenching one's teeth, by forcing the practice, getting all tensed up. Quindi la mancanza di compostezza è quando diventiamo molto tesi, stringiamo i denti, spingiamo molto, diventa una pratica, in altre parole, così molto contratta. And so the causes for such straining might be things such as setting standards, having high expectations, ambitions, and suddenly then let's say excessive effort, and maybe also a great deal of self being involved. E quindi questo sforzo eccessivo, diciamo, questo spingere può essere dovuto a degli standard troppo alti che ci siamo messi, o delle aspettative o delle ambizioni rispetto alla pratica. Excessive effort and stealth. Ah, ecco, questo può anche denotare una presenza eccessiva del sé nella pratica, un rafforzamento del sé. No, the Pali term for composure is satitana, and so the Venerable Sadhu Pandita translates this as firmness of mind. Quindi sadditana è la parola pali per questa compostezza, e il Venerabile Upandita la definisce come una certa fermezza della mente. And certain composure in the English language has been defined as a state of being calm and in control of one's certain feelings or behavior. Quindi la compostezza in inglese, penso si possa dire anche in italiano, è stata definita come uno stato di calma e di pieno controllo dei propri sentimenti, control of one's feelings and behavior, e anche del proprio comportamento. No, it could also be described as a state of being even-tempered. Tradurre può essere anche espresso come essere, non c'è un po' su dire, essere temperato, non so come dire, cioè come dire, una persona che non ha degli eccessi, no? Quindi temperanza. La temperanza mi suggerisco, no? La temperanza, una persona temperata. The Venerable Nesadu Pandita also speaks of taking an unconcerned attitude towards certain hindrances or other difficulties. Venerabile Upandita indica anche in questa qualità il fatto di avere un atteggiamento non coinvolto, diciamo, non particolarmente interessato, soprattutto rispetto alle situazioni difficili, ecco, ai problemi. And so, there's certain things in life that tend to be challenging. The Patisambhita Mother speaks of 15 of those, and some of them are the arising of formations, in other words, the genesis, the birth. Sì, ci sono parecchie cose nella vita che creano difficoltà, e il Patisambhita Bhanga ne elenca 15, e una di queste è l'inizio delle formazioni, è la genesi della formazione stessa. Then we have in a very general way the occurrence of formations, which means they are going on. E poi c'è, questo in senso molto generale, il fatto che queste formazioni continuano, cioè vengono in essere, si può dire. And certainly formations oftentimes, or for the most part, have a sign through which we recognize them. E poi più delle volte queste formazioni hanno un segno attraverso cui noi le riconosciamo. And certainly there are things, major stations in life, so there's birth, and then there's aging, there's sickness, there's death, sorrow, lamentation, and despair. Poi ci sono varie fasi nella vita, c'è la nascita, c'è il diventare vecchi, c'è la malattia, c'è la morte, c'è la tristezza, la disperazione, lamentation, despair. E la disperazione. So, those are some of the challenging events in life, and it is that we need to develop composure towards them and just accept them as parts of our human existence. Queste sono le situazioni difficili, diciamo, problematiche, difficili della nostra vita, ed è proprio riguardo a questi che dobbiamo sviluppare questa, questa compostezza, diciamo, della mente. Now, to give you a practical example for the importance or the application of threatening composure. Very simple, namely the five hindrances. Per darvi un esempio pratico dell'importanza di questa compostezza, utilizziamo il rapporto con gli ostacoli, cinque ostacoli. So by now most of you will have experienced the five priests and the five hindrances, probably already at least twice. La maggior parte di voi probabilmente avrà sperimentato i cinque ostacoli, forse anche due volte. At the very beginning of the retreat and certainly somewhat recently. Quindi forse all'inizio del vostro ritiro e anche poi recentemente. Now, when dealing with the hindrances for the first time, then one might suddenly get all tensed up and lose this even temperedness. E quindi quando uno sperimenta per la prima volta questi cinque ostacoli, la persona potrebbe perdere questa sorta di even temperedness. Come l'hai chiamata? Questa sua temperanza. And maybe as a further aspect, when the hindrances arise for the first time, then one might be overly concerned with them. My goodness, what is happening? How do I get out of this state? And so the mind is in a state of turmoil. E potrebbe succedere che uno gli dà un po' troppa importanza, comincia a chiedere: ma cos'è questa cosa che mi sta succedendo? E di conseguenza la mente entra in uno stato un po' di turbolenza. But if as a retreatant one has experienced the hindrances already five times or ten times, by that time there will be much more composure towards them, and then in an unconcerned manner one can deal with them. In a professional manner, one deals with them, one knows them already, one knows exactly what one needs to do, and can easily go right through. Ma quando uno li ha sperimentati più di una volta, 4-5 volte, questi ostacoli, allora ecco che non si fa più particolarmente coinvolgere, riesce a vederli in un modo un pochino distaccato e va avanti con la propria pratica, perché ha un atteggiamento più professionale, si conosce già. And this composure is usually experienced as a mind which is very strong and also very stable. E questa compostezza viene con una mente che è molto forte e anche molto stabile. As well as it has been referred to as emotional stability. Viene chiamata anche una stabilità emotiva. No. The last aspect to just briefly mention, just for your general knowledge, is the six-factored equanimity, Chalang Upeka in the Pali scriptural language. L'ultimo fattore che analizziamo per vostra conoscenza così generale è questa equanimità dei sei fattori. Well, actually, of the six. Six-factored. So, six-factored equanimity that has with regard to six things. Ah, ecco, quindi è una equanimità che si sviluppa nei confronti di sei fattori, di sei oggetti. No, those certain six certain things are nothing other than the physical and mental objects that arise at all six sense doors. Namely, the eye door, the ear door, the nose door, the tongue door, the body door, and the mind door. Quindi questi sei fattori verso i quali si sviluppa l'equanimità non sono altro che gli oggetti fisici e mentali che si presentano alle sei porte, anzi alle porte dei sei sensi, e cioè la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il corpo, quindi il tatto, e la mente. Now, To develop equanimity is already difficult enough, and to possess this or to develop this sixth factor, the equanimity, is even more difficult. Quindi già sviluppare l'equanimità è molto difficile, e sviluppare un'equanimità riguardo a questi sei fattori è ancora più difficile. So the six-factored equanimity is basically the equanimity of an arahant, namely towards everything, all formations whatsoever. Quindi questo tipo di equanimità è l'equanimità di un arahant, cioè quella che si ha verso tutti i fenomeni, qualunque essi siano. So just imagine yourself to sit in meditation and suddenly, no matter how noisy it might be, no matter how what certain kind of visible objects arise suddenly in the mind, or no matter how difficult the pains are or mental states suddenly that arise, the mind just remains like this, totally untouched, unaffected. Immaginatevi quindi di sedervi e qualunque siano le condizioni, che ci sia rumore, che ci sia un dolore, che ci siano immagini nella mente, la mente rimane sempre in questa situazione molto stabile, senza essere toccata da ciò che avviene, insomma, da ciò che sorge. During that knowledge of equanimity about formations, one can at least get a taste for this sixth factor of equanimity. Quindi in questa fase della pratica, che è questa conoscenza dell'equanimità verso le formazioni, un meditante può avere un assaggio di quest'altro tipo di equanimità più completa, diciamo. No. What the development of Fatna equanimity brings as one or two of the benefits, and there are many others, is for one thing what Sarupadita calls the repelling power of the mind, and secondly also the resistance power of the mind. Quindi i benefici di questa equanimità sono quelli che Upandita chiama il potere repellente della mente, e il secondo è il potere di resistenza della mente. So resistance in the sense that certain one can withstand certain difficult situations, like a young plant, you can withstand or gradually learns to withstand heat and certain cold. E quindi questa resistenza della mente significa che riesce a sopportare anche le condizioni più difficili, così come un germoglio impara a sopportare sia il caldo che il freddo. Now the other aspect is the repelling power of the mind, which means that unholds or formations, whether desirable or undesirable, they get repelled. They get they simply no longer stick to the mind. Quindi invece per potere repellente si intende che gli oggetti, che si siano desiderabili o non desiderabili, vengono in qualche modo respinti dalla mente, quindi non si appiccicano, non si attaccano alla mente. And so a modern day example or illustration for this would be a Teflon frying pan, because nothing sticks to it. Quindi un esempio moderno di questa capacità della mente è una padella con il Teflon, che nulla attacca praticamente, il cibo non attacca. And the Venerable Sadhu Pandita loves to loves to use the following illustration, as he certainly observed on big ocean-going ships, namely this so-called circular windshield wiper. So you have on the top level of a ship, usually in the middle, you have this device, the circular device, and there's an electrical motor in it, and it keeps rotating all the time. And even if the ship goes through a snowstorm, none of those snowflakes will stick to that part of the window, to the wiper. Quindi un'altra immagine, un altro esempio che di solito cita il venerabile Upandita è quello di un tergicristallo circolare che si trova sulle navi e quindi in qualche modo impedisce sia che la nave vada contro vento o a favore del vento, impedisce che qualsiasi cosa vi si attacchi, anche se attraversa una tempesta, per esempio. And so, when the mind is possessed with equanimity, with neutrality of mind, with this knowledge of equanimity about certain formations, then that's the state of mental health that goes along with this could be described as very strong. Quindi quando la mente possiede questa forma di equanimità, allora la salute mentale che l'accompagna si può dire che è molto forte. And just nothing affects the mind. One can go through, one goes through life just like this, not being shaken in any way. E quindi non c'è nulla che disturbi la mente. La persona può attraversare la vita in maniera stabile e dritta senza che venga in qualche modo scossa in alcun modo. Allow me to conclude today's Dhamma Talk by wishing well equipped with patience, with what else? Neutrality of mind, with equanimity about formations and composure. May we all again and clearly understanding formations, turning away from them, and may we then gain the six-factored equanimity and eventually gain the peace of Nibbana. And this is it. Quindi concluderò il discorso augurando che con una mente equipaggiata in questa pazienza, neutralità, compostezza, equanimità, che si possa conoscere la vera natura dei fenomeni e quindi allontanarsi da essi, non essere coinvolti da essi e di conseguenza sviluppare quest'altro tipo di equanimità, quella verso i sei fattori e con questa raggiungere il Nirvana. Voilà, and that's it for today.